Il terzo anello ad alta voce, il circolo Pickwick di Charles Dickens. Immagino che avrete saputo cosa sta succedendo, Mr. Weller, disse la signora Bardell. Ne ho sentito accennare, rispose Sam. È una cosa terribile dover mettere in piazza i propri affari in questo modo, Mr. Weller, disse la signora Bardell. Ma adesso vedo che non potevo fare diversamente. E i miei avvocati Dodson e Fogg mi dicono che con le testimonianze che possiamo raccogliere vinceremo certamente. Ah, non so cosa farei se non dovessi vincere, Mr. Weller. La sola idea che la signora Bardell potesse perdere la causa commosse la signora Sanders così profondamente che si trovò nella necessità di riempire e rivuotare subito il bicchiere, presentando come disse dopo che se non avesse avuto la presenza di spirito di premunirsi così sarebbe caduta esanime. «Per quando è previsto il processo?» chiese Sam. «Ah, per febbraio o marzo! E ci sarà un mucchio di testimoni, vero? Oh, un mucchio! Andrebbero fuori dai gangheri Dodson e Fogg se non vincesse l'attore!» aggiunse la signora Clappis, «dato che lavorano in previsione di farsi pagare tutto dal convenuto! Oh, fuori dai gangheri! Ma l'attore vincerà! Ah, lo spero! Oh, non può esserci alcun dubbio!» «Bene!» disse Sam alzandosi e posando il bicchiere. «Io posso dire soltanto che vi auguro di poter vincere.» «Grazie, Mr. Weller», disse calorosamente la signora Bardell. «E quanto a Dodson e Fogg che fanno questo genere di speculazioni sul convenuto», continuò Mr. Weller, «e a tutti gli altri buoni e generosi personaggi della stessa professione che fanno litigare la gente gratis senza spendere un soldo e pagano i loro impiegati perché vadano a scovare fra i loro vicini e conoscenti delle piccole questioni che abbiano bisogno di essere risolte con un processo, tutto ciò che posso dire di loro è questo. Gli auguro di ricevere la ricompensa che vorrei dargli io.» «Ah, possano ricevere la ricompensa che ogni cuore buono e generoso vorrebbe dargli», disse compiaciuta la signora Bardell. «Amen», rispose Sam, «e se ne troverebbero ricchi e felici. Vi auguro la buonanotte, signore.» Con gran sollievo della signora Sanders, Sam fu congedato senza che la padrona di casa facesse alcun accenno agli zampini e al formaggio, ai quali subito dopo e con la giovanile assistenza del signorino Bardell le signore resero ampiamente giustizia. Si può dire anzi che svanirono letteralmente sotto i loro colpi vigorosi. Mr. Weller rifece la strada verso il Giorgio e Avvoltoio e riferì fedelmente al suo padrone tutto ciò che era riuscito a sapere sulla disonestà professionale di Dodson e Fogg. Un colloquio con Mr. Perker il giorno dopo confermò pienamente le affermazioni di Mr. Weller, e a Mr. Pickwick non restò che prepararsi a passare il Natale a Dingley Dell con la piacevole prospettiva che di lì a qualche mese si sarebbe svolta di fronte al Tribunale di Common Pleas una causa per danni in cui egli doveva difendersi dall'accusa di aver rotto una promessa di matrimonio, e in cui la querelante aveva tutti i vantaggi che le venivano non solo dalla forza delle circostanze, ma anche dalla disonestà professionale di Dodson e Fogg. Thank you. Capitolo 31, che tratta solo della legge e di alcune grandi autorità nel campo giuridico. Sparse qua e là, nei diversi buchi e recessi del Temple, ci sono certe camere buie e sporche, dentro e fuori delle quali, tutte le mattine durante le vacanze del tribunale e anche nella prima metà del pomeriggio durante le sessioni, si può vedere una fila quasi ininterrotta di impiegati degli studi legali che vanno e vengono frettolosamente con fasci di carte che spuntano da sotto il braccio o dalle tasche. Verso le 7:30 del pomeriggio, 10 o 15 giorni dopo il ritorno a Londra di Mr. Pickwick e dei suoi amici, entrò di corsa in uno di quegli uffici un individuo vestito di scuro e coi bottoni di metallo, la cui lunga capigliatura era scrupolosamente disposta in riccioli intorno all'orlo del cappello spelacchiato e i cui sporchi calzoni grigiastri erano tirati a forza sugli stivaletti per modo che le ginocchia minacciavano ogni momento di uscire dal riparo. Là tirò fuori dalla tasca della giacca una striscia lunga e stretta di pergamena su cui il funzionario responsabile impresse un timbro nero indecifrabile. Poi estrasse 4 pezzi di carta delle stesse dimensioni, tutte copie stampate della striscia di pergamena, con i nomi in bianco, e dopo aver riempito i vuoti, si mise in tasca tutti e 5 i documenti e uscì in gran fretta. L'uomo vestito di scuro con quei documenti cabalistici in tasca non era altri che il nostro vecchio amico Mr. Jackson, dello studio Dodson & Fogg, Freeman's Court, Cornhill. Ma invece di ritornare nell'ufficio da dove veniva, egli volse i suoi passi verso Sun Court, ed entrando di filato nell'albergo Giorgio e Avvoltoio, chiese se un certo Mr. Pickwick fosse in casa. «Chiamate il servitore di Mr. Pickwick, Tom», disse la barista del Giorgio e Avvoltoio. «Non disturbatevi», disse Mr. Jackson. «Sono venuto per affari. Se volete mostrarmi la stanza di Mr. Pickwick, andrò io da lui». «Il vostro nome, signore?» disse il cameriere. «Jackson», rispose l'impiegato. Il cameriere salì al piano di sopra per annunciare Mr. Jackson, ma Mr. Jackson gli risparmiò la fatica seguendolo a un passo di distanza ed entrando nella camera prima che potesse articolare una sillaba. Quel giorno Mr. Pickwick aveva invitato a pranzo i suoi 3 amici e sedevano tutti intorno al fuoco bevendo il loro vino quando, come dicevamo, si presentò Mr. Jackson. «Come state, signore?» disse Mr. Jackson con un cenno del capo a Mr. Pickwick. Questi si inchinò con aria piuttosto sorpresa, perché la fisionomia di Mr. Jackson non gli ricordava nulla. «Vengo da parte di Dodson & Fogg», spiegò Mr. Jackson. Nel sentire questi nomi, Mr. Pickwick si alzò di scatto. «Rivolgetevi al mio avvocato, signore, Mr. Perker di Gray's Inn», disse. «Cameriere, accompagnate alla porta il signore». «Chiedo scusa, Mr. Pickwick», disse Jackson posando il cappello con studiata lentezza e tirando fuori di tasca la striscia di pergamena. «Ma in questi casi, sapete bene, Mr. Pickwick, la notifica va fatta personalmente, per mezzo di un impiegato o di altra persona autorizzata. In materia di legge, signore, la prudenza non è mai troppa». Qui Mr. Jackson diede un'occhiata alla pergamena e, posando le mani sulla tavola e girando lo sguardo intorno con un sorriso avvincente e persuasivo, disse: «Andiamo, dunque, non mettiamoci a discutere di queste piccolezze. Quale dei signori si chiama Snodgrass?» A questa domanda, Mr. Snodgrass trasalì in modo così evidente e sensibile che non ci fu bisogno di altra risposta. «Ah, lo immaginavo», disse Mr. Jackson sempre più affabilmente. «Ho qui un piccolo fastidio anche per voi, signore». «Per me?» esclamò Mr. Snodgrass. «È soltanto una subpena nella causa Bardell contro Pickwick come testimonio dell'accusa», rispose Jackson, scegliendo uno dei fogli di carta e tirando fuori uno scellino dalla tasca del panciotto. «Si discuterà durante la prossima sessione, il 14 febbraio probabilmente. L'abbiamo iscritta a fare i processi con giuria speciale ed è solo la 10ª al ruolo. Ecco a voi, Mr. Snodgrass». Così dicendo, Jackson mise la pergamena sotto gli occhi di Mr. Snodgrass e gli fece scivolare in mano la carta e lo scellino. Mr. Tupman aveva assistito in attonito silenzio a queste manovre, quando Jackson, girandosi di scatto verso di lui, disse: «Credo di non sbagliare se dico che vi chiamate Tupman, vero?» Mr. Tupman guardò Mr. Pickwick, ma non potendo cogliere nei suoi occhi sbarrati il minimo incoraggiamento a negare il proprio nome, disse: «Sì, mi chiamo Tupman». «E quell'altro signore è Mr. Winkle, suppongo», disse Mr. Jackson. Mr. Winkle balbettò qualche parola di conferma e i due amici furono immediatamente dotati di un foglio di carta e di uno scellino ciascuno dall'esperto Mr. Jackson. «Ed ora», disse Jackson, «ho paura che mi giudicherete piuttosto seccante, ma ho bisogno di qualcun altro se non vi dispiace. Ho qui il nome di Samuel Weller, Mr. Pickwick». «Mandate qui il mio domestico, cameriere», disse Mr. Pickwick. Il cameriere uscì notevolmente stupito e Mr. Pickwick fece cenno a Jackson di sedersi. Seguì un penoso silenzio che alla fine fu rotto dall'innocente convenuto. «Immagino, signore», disse Mr. Pickwick, gonfiandosi di sdegno a mano che parlava, «immagino che i vostri superiori vogliano provare la mia colpevolezza con la testimonianza dei miei stessi amici». Mr. Jackson si batté più volte l'indice contro la narice sinistra del naso per significare che non era lì a svelare i segreti della giustizia criminale e ribatté giocondamente: «Non posso dirlo, perché non lo so». «E per quale altra ragione?» proseguì Mr. Pickwick. «Queste subpene sarebbero state inviate se non per questo». «La trappola è buona, Mr. Pickwick», rispose Jackson scuotendo lentamente la testa, «ma non serve a niente. Non c'è nulla di male a tentare, ma da me caverete fuori ben poco». Qui Mr. Jackson fece un altro sorriso alla compagnia e, applicandosi il pollice sinistro alla punta del naso, si mise a girare con la destra un immaginario macinino da caffè, eseguendo così una graziosissima pantomima, allora molto in voga ma adesso disgraziatamente caduta in disuso, che si chiamava volgarmente marameo. «No, no, Mr. Pickwick», concluse Jackson, «la gente di Perker dovrà indovinare, perché noi abbiamo inviato queste subpene. Se non ci riusciranno, dovranno aspettare che si apra il processo, e allora lo scopriranno». Mr. Pickwick diede uno sguardo di estremo disgusto allo sgradito visitatore e avrebbe scagliato probabilmente qualche terribile anatema sulla testa dei signori Dodson e Fogg se non fosse stato interrotto da Sam, che entrava in quel momento. «Sam Weller?» domandò Mr. Jackson. «Una delle cose più vere che abbiate detto da molti anni a questa parte», rispose Sam con la massima tranquillità. «Questa suppena è per voi, Mr. Weller», disse Jackson. «Cosa sarebbe in inglese?» chiese Sam. «Ecco l'originale», disse Jackson, senza dare la spiegazione richiesta. «Quale?» disse Sam. «Questo», rispose Jackson agitando la pergamena. «Ah, questo è l'originale, no?» disse Sam. «Bene, sono molto contento di aver visto l'originale, perché è un genere di cosa che piace e rasserena lo spirito. E questo è lo scellino», disse Jackson, «da parte di Dodson e Fogg». «Ed è veramente gentile da parte di Dodson e Fogg mandarvi un regalo pur conoscendomi così poco», disse Sam. «Lo considero una grandissima cortesia ed è una cosa che fa molto onore saper premiare il merito dovunque si trova. Oltre a ciò, è una cosa che tocca il cuore». Così dicendo, Mr. Weller si frizionò leggermente la palpebra destra con la manica della giacca, alla maniera migliore degli attori nelle più patetiche manifestazioni di affetto familiare. Mr. Jackson parve un po' sconcertato da questo modo di agire, ma, avendo consegnato le subpene e non avendo altro da aggiungere, fece il gesto di infilarsi l'unico guanto che teneva sempre in mano per amore delle apparenze e tornò in ufficio a riferire come erano andate le cose. Oh, Mr. Pickwick dormì poco quella notte. L'azione della signora Bardell gli era stata sgradevolmente rinfrescata nella memoria. La mattina dopo fece colazione presto e, ordinando a Sam di accompagnarlo, uscì alla volta di Gray's Inn Square. «Sam?» disse Mr. Pickwick guardandosi intorno quando arrivarono in fondo a Cheapside. «Signore?» disse Sam avvicinandosi al suo padrone. «Da che parte?» «Super Newgate Street». Mr. Pickwick non si voltò subito, ma fissò vacuamente Sam per alcuni secondi e sospirò profondamente. «Cosa avete, signore?» domandò Sam. «Questa causa, Sam», disse Mr. Pickwick. «Si dovrebbe discutere il 14 del prossimo mese». «Una curiosa coincidenza, signore», rispose Sam. «Perché curiosa, Sam?» chiese Mr. Pickwick. «È San Valentino, signore», rispose Sam. «Proprio il giorno adatto per discutere una mancata promessa di matrimonio». Il sorriso di Mr. Weller non suscitò alcuna luce di allegria sul volto del suo padrone. Mr. Pickwick si girò bruscamente e riprese il cammino in silenzio. «Ah, caro signore», disse il piccolo Mr. Perker alzandosi premurosamente in piedi. «Dunque, caro signore, che notizie ci portate sulla vostra causa? Sapete qualcosa dei nostri amici di Freeman's Court? Non hanno dormito, questo lo so. Ah, sono gente in gamba, molto molto in gamba». E per concludere l'ometto fiutò significativamente una presa di tabacco in omaggio alla valentia professionale dei signori Dodson e Fogg. «Sono dei gran farabutti», disse Mr. Pickwick. «Già, già, è questione di opinioni, sapete bene, e non è il caso di discutere sulle parole. Del resto è logico che voi non possiate vedere queste cose da un punto di vista professionale. Dunque, noi abbiamo fatto tutto il necessario. Mi sono assicurato l'appoggio dell'avvocato Snobbing». «E bravo?» chiese Mr. Pickwick. «Bravo?» rispose Perker. «Ma Dio vi benedica, caro signore! L'avvocato Snobbing è una vera cima nel suo campo. Ha 3 volte più cause di qualsiasi altro in tribunale. Ha le mani in pasta dappertutto. Non c'è bisogno che andiate a dirlo in giro, ma noi diciamo, fra noi avvocati, che Snobbing si rigira la corte come vuole». Nel fare questa dichiarazione, l'ometto fiutò un'altra presa di tabacco e annuì con un'aria piena di sottintesi. «Hanno chiamato a testimoniare i miei 3 amici. Disse Mr. Pickwick. «Ah, naturalmente», rispose Perker. «Testimonianza importantissima. Vi hanno visto in una situazione delicata». «Ma lei svenne per conto suo», disse Mr. Pickwick. «Fu lei a gettarsi nelle mie braccia». «Molto probabile, caro signore», rispose Perker. «Molto probabile e molto naturale. Nulla di più probabile, caro signore, nulla. Ma chi potrà provarlo?» «Hanno chiamato a testimoniare anche il mio servo», disse Mr. Pickwick lasciando perdere il punto precedente, poiché la domanda di Mr. Perker l'aveva un po' sconcertato. «Sam?» disse Perker. «Appunto», disse Mr. Pickwick. «Si capisce, caro signore, si capisce. Sapevo che l'avrebbero fatto. Avrei potuto dirvelo un mese fa. Vedete, caro signore, se vi ostinate a far di testa vostra dopo aver affidato i vostri affari a un legale, dovete anche sopportarne le conseguenze». Qui Mr. Perker si impettì, conscio della propria dignità, e spazzò via dal polsino della camicia qualche isolato granello di polvere di tabacco. «E che cosa vorranno fargli provare?» chiese Mr. Pickwick dopo 2 o 3 minuti di silenzio. «Che voi l'avete mandato dalla querelante per offrirle un compromesso, suppongo», rispose Perker. «Ma non me ne preoccupo granché. Non credo che ci siano avvocati capaci di cavargli fuori qualcosa». «Non lo credo neanch'io», disse Mr. Pickwick, sorridendo involontariamente a dispetto della sua irritazione all'idea che Sam sarebbe comparso come testimonio. «E che linea seguiremo?» «Possiamo seguirne una soltanto, caro signore», rispose Perker. «Fare un controinterrogatorio ai testimoni, affidarci all'eloquenza di Snobbing, gettare polvere negli occhi del giudice e rimetterci al verdetto della giuria». Thank you.